24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Un saluto da Sergio Nava, ben trovati a questo nuovo appuntamento con 24 ore in Europa. In primo piano oggi la strage di Tolosa, dove un attentatore ha sparato all'ingresso di una scuola ebraica facendo 4 vittime. La Francia è sotto shock in piena campagna elettorale per le presidenziali. Commissione europea pronta al giro di vite contro lo shadow banking, mentre Bruxelles è ottimista su un compromesso sulla Tobin Tax. Ufficialmente in carica il nuovo presidente tedesco, mentre sta per iniziare il percorso della torcia olimpica verso Londra 2012. È una giornata di tragedia nazionale, perché abbiamo assassinato 200 froid, des enfants. La Francia è sotto shock dopo l'assalto alla scuola ebraica di Tolosa condotto da un killer che, arrivato a bordo di uno scooter, ha aperto il fuoco su un gruppo di bambini uccidendo un insegnante rabbino, i suoi due figli e un altro studente. Avete appena ascoltato le parole del presidente francese Nicolas Sarkozy, che si è immediatamente precipitato a Tolosa. Un altro ragazzo, 17 anni, è in fin di vita. L'assassino potrebbe essere lo stesso che ha ucciso 3 soldati la settimana scorsa. Le vittime sono state colpite da una calibro 11-43, la stessa arma. Il presidente francese Sarkozy parla di tragedia nazionale, inorridito Israele, che chiede a Parigi di fare luce assicurando alla giustizia i responsabili. Prima ha sparato contro tutto quello che aveva di fronte, poi ha anche inseguito alcuni bambini all'interno della scuola. Nella ricostruzione del procuratore Michel Vallée c'è tutto l'orrore della strage compiuta questa mattina davanti a una scuola ebraica di Tolosa, nel sud-ovest della Francia. 4 i morti, 3 dei quali bambini, un insegnante franco-israeliano con i suoi 2 figli di 3 e 6 anni e un altro studente di 10. Ma il bilancio potrebbe aggravarsi perché sono diverse le persone ferite, anche in modo grave. Erano da poco passate le 8 quando a bordo di uno scooter il killer, casco in testa, ha aperto il fuoco sui bambini fermi davanti all'ingresso della scuola. Poi è fuggito. La dinamica e le armi usate, una pistola calibro 11-43, lasciano supporre che sia lo stesso autore dei 2 agguati contro militari compiuti la scorsa settimana sempre a Tolosa e nella vicina Montauban. Agguati costati la vita a 3 soldati. Su tutti gli episodi ora indaga il Tribunale Antiterrorismo di Parigi. Mentre Israele e le autorità ebraiche francesi si dicono inorridite e sconvolte per quanto accaduto, il presidente Nicolas Sarkozy ha annullato tutti gli impegni per accorrere sul posto. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. È in arrivo un giro di vite comunitario sui costi delle banche troppo elevati e poco trasparenti per i consumatori. Il commissario al mercato interno Michel Barnier, deluso dall'incapacità e dalla cattiva volontà delle banche di autoregolarsi, ha deciso di intervenire a garanzia dei cittadini che trovano troppo complicato passare da una banca all'altra, che hanno difficoltà a orientarsi nelle voci del loro estratto conto e che spesso non hanno accesso a un conto bancario di base. La priorità per il 2012 sono i consumatori che hanno perso fiducia nel settore bancario, ha spiegato Barnier, convinto di voler agire per proteggere al meglio. La proposta di Bruxelles in versione definitiva arriverà nei prossimi mesi. Sulla Tobin Tax può essere possibile che si arrivi a un compromesso politico sul quale si raggiunga il consenso tra tutti i 27 paesi dell'Unione Europea. Ad affermarlo il commissario alla fiscalità Algirdas Semeta, intervenendo a una conferenza interparlamentare a Copenaghen. Il compromesso, secondo Semeta, si fonda sulle solide discussioni tecniche e sulle proposte della Commissione che sono già a buon punto. La Gran Bretagna si è finora espressa nettamente contro la Tobin Tax. Ora i mercati, lo spread BTP Bund ha chiuso sotto i 280 punti base a quota 278, in calo dai 281 di venerdì. Il rendimento del titolo decennale italiano scende al 4,84%. Seduta con pochi spunti sui mercati finanziari, quella di ieri ha accantonato il tormentone Grecia, l'attenzione degli investitori si sta spostando sull'andamento dell'economia americana. FTSE MIB più 0,30%, mentre le altre piazze continentali hanno chiuso in leggero calo. Sentiamo. Dopo il rally di settimana scorsa, le borse chiudono una seduta prudente, in attesa di ulteriori segnali positivi sul fronte macroeconomico. Così ieri Parigi ha perso lo 0,4%, Francoforte e Londra lo 0,1%, mentre Milano è stata comunque positiva, col FTSE MIB più 0,3%. A Piazza Affari brilla Mediaset più 3,3%, che rimbalza in attesa dei conti di oggi, dopo il forte calo registrato nelle ultime settimane. Bene anche Parmalat più 3,1% sulle scommesse di delisting e Salvatore Ferragamo più 3,3% che vola dopo un 2011 in netta crescita. In coda al listino invece Ubibanca meno 1,1%, mentre i realizzi colpiscono anche Pirelli meno 1,4% e Intesa San Paolo meno 0,8%. A2A meno 0,8% paga il pessimismo del mercato in vista dei conti 2011 che saranno approvati venerdì. Fuori dal listino principale, infine, il Credito Artigiano più 21% e il Creva al meno 10% si adeguano al concambio previsto per la fusione annunciata ieri. Ceo Condina da Radio Corp per Radio 24 e Il Sole 24 Ore. Ha preso possesso delle sue funzioni il nuovo presidente tedesco. Sentiamo il servizio. Il presidente della Repubblica, che il cancelliere tedesco Angela Merkel non voleva, viene eletto a larghissima maggioranza dal collegio dei grandi elettori in Germania. Si tratta di Joachim Gauck, 72 anni, pastore luterano nella vecchia Germania dell'Est, un oppositore irriducibile del regime comunista. Due anni fa Angela Merkel aveva imposto Christian Wolff, considerato un suo delfino, che il mese scorso ha dovuto dimettersi a causa di uno scandalo finanziario. Punto, l'opposizione, i socialdemocratici e i verdi, ha riproposto il nome di Gauck, che già due anni fa era stato l'oppositore di Wolff. A sorpresa si sono allineati i liberaldemocratici, che fanno parte della coalizione del cancelliere Merkel, e a questo punto al cancelliere non è rimasto che fare buon viso a cattivo gioco e schierarsi anche lei a sostegno di Gauck. È una personalità molto forte, dotata di grande carisma, si prevede che al suo incarico, che è un incarico sostanzialmente di rappresentanza, quello di Presidente della Repubblica, aggiungerà la capacità di parlare alle persone comuni. Cavour capiva l'importanza delle interconnessioni ferroviarie come strumento di libertà per favorire lo sviluppo nella prospettiva dell'unità nazionale. Anche oggi, senza connessione da Lisbona all'Est Europa, rischiamo l'isolamento dall'Unione Europea. Così il premier italiano Mario Monti, intervenendo domenica al Teatro Regio di Torino. Sentiamo Monti. Noi siamo convinti che la TAV sia, anzitutto la TAV non è Torino-Lione, la TAV è parte di un grande corridoio transeuropeo di comunicazione, è esattamente quello che spesso l'Italia ha chiesto all'Europa, di non essere solo moneta o disciplina di bilancio pubblico, ma essere anche investimento, infrastruttura, fattore di sviluppo. Questa cosa la TAV lo è, e se naturalmente bisogna tenere conto delle preoccupazioni locali, eccetera, cosa che è stata fatta nel corso di molti anni, è arrivato il momento di fare un passo avanti, eseguire quest'opera, e se no bisogna prendersi la responsabilità di lasciare lentamente slittare la penisola italiana in un tuffo nel Mediterraneo e in un distacco dall'Europa. Non credo che nessuno possa volere questo. La riforma della giustizia ungherese, varata nel 2011, minaccia l'indipendenza della magistratura. Dopo la Commissione europea, anche il Consiglio d'Europa, attraverso la Commissione di Venezia, scende in campo contro le norme varate da Budapest, ritenute lesive delle libertà individuali e dei diritti fondamentali europei. Affrontare il programma quadro di ricerca dell'Unione Europea, un piano da 81 miliardi di euro per il periodo 2013-2020, come sistema paese, con una strategia unitaria e condivisa che parta dall'Europa e arrivi alle regioni. Questa è la sfida che il presidente di Confindustria Servizi Innovativi, Ennio Lucarelli, lancia all'Italia. L'obiettivo è archiviare l'esperienza degli anni 2007-2012, quando il nostro paese ha ottenuto solamente l'8,4% dei progetti di ricerca sovvenzionati dall'Unione Europea, a fronte del finanziamento del 13,4% del programma comunitario. In chiusura parliamo di sport. È pronta a partire la torcia olimpica che approderà a Londra in vista delle Olimpiadi 2012. Sentiamo. Dalla fine della Terra, un posto che si chiama Land's End, il punto più a ovest della Gran Bretagna, fino al cuore del braciere olimpico di Londra. Ci saranno 70 giorni di marcia a partire dal 19 maggio e 8.000 miglia da percorrere attraverso luoghi simbolo come Stonehenge, l'Irlanda del Nord, Edimburgo, Dublino, così come attraverso strade di campagna qualunque. Ci saranno 8.000 braccia a portarla, 700 quelle di celebrità varie, 7.300 di volontari selezionati per il contributo che hanno dato alle loro comunità. Ci saranno veterani di guerra, bambini e anche un ultracentenario, la cittadina londinese Diana Gold, che compierà 100 anni il 23 di maggio. Per ciascuno 300 metri di gloria, Il 21 luglio il fuoco arriverà a Londra. Il 27 il braciere sarà acceso. Carlo Genta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. È tutto per il nostro appuntamento con 24 Ore in Europa. Un grazie per l'assistenza in regia a Carmelo Lauricella. Una buona giornata da Sergio Nava. 24 Ore in Europa. In collaborazione con Euronet.